finalmente si compie questo percorso per la realizzazione e collocazione di una statua dedicata a Frick, progetto pensato da un giovane artista scultore di Carrara che ce l'ha proposto. Noi abbiamo ritenuto che fosse giusto e utile supportarlo e dargli una mano anche finanziariamente per realizzarla. Abbiamo avuto la complicità di tutte le istituzioni, compresa la Sovrintendenza delle Belle Arti, che doveva dare il permesso per collocarla nel luogo dove sarà, lì in Parco del Cavaticcio. Quindi insomma, per noi questa statua in qualche modo è un simbolo in realtà di una stagione, a parte che c'è Frick eccetera, però è simbolo di una stagione per Bologna estremamente fertile e creativa, quindi niente, siamo molto contenti. Quindi la collocazione sarà al Cavaticcio? Cavaticcio, sì, nel Parco del Cavaticcio. Hai già avuto modo di vedere l'opera? Com'è? Beh, l'opera ovviamente non è un'opera lineare, nel senso non è una scultura classica, tra virgolette, sì, è una scultura classica perché fatta a New Armo, ma comunque la rappresentazione che ne è stata fatta di Frick è provocatoria, non poteva non essere che in qualche maniera provocatoria, cioè lui che esce da un cesso, però con alle spalle un jetpack che lo porta via da qualche altra parte. Sua espressione è molto malinconica, ma come era lui d'altra parte, per cui sì, è una statua che comunica secondo me delle cose, poi ci sarà chi piace, chi non piace, ovviamente come sempre succede in questo mondo, però secondo me è una bella idea e funziona, insomma, è funzionale per quello che è stato Frick, per quello che ha rappresentato, quindi bene. Ovviamente non poteva essere, come dire, una statua monumentale, non sarebbe piaciuta neanche a lui. Ma sì, no, sul fatto che non sarebbe piaciuta neanche a lui è una questione che secondo me chi conosceva bene Frick sa che in fondo gli avrebbe fatto piacere. Era una posa quella di... Beh sì, c'è molto della posa, poi sai, i complimenti, le soddisfazioni che poi non ha mai avuto in realtà economicamente parlando, per cui se le avesse avute sarebbe stato ben contento, anche se poi era diventata una posa dire che faceva parte della storia. Però sì, no, io mi sono convinto a cercare di realizzare il progetto perché sono abbastanza sicuro che a lui comunque avrebbe fatto piacere, e comunque lui adesso è da qualche altra parte, sicuramente fa piacere alla famiglia, alla mamma di Frick, alla figlia, insomma, quindi fa piacere a tanti fan che insomma così hanno un punto di riferimento su cui in qualche maniera provare a confrontarsi. Ecco, ti faccio una domanda più generale, prettamente musicale. Adesso Lelio e le Storie Tese si sciolgono o non si sciolgono, insomma, questo l'abbiamo visto. Vabbè, ma a parte quello, Frick non c'è più. Sul panorama musicale italiano oggi c'è qualcosa che possa vagamente assomigliare agli Skiantos? Allora, io non ho una conoscenza proprio delle ultime cose così approfondita da poter dire, però secondo me le cose ci sono. Il problema vero è che non escono più. Cioè, per noi, per le nostre generazioni, c'era comunque un meccanismo, un sistema che in qualche maniera poi funzionava. Adesso è molto più complicato. Però per esempio lo Stato Sociale secondo me è una buona, tra virgolette, continuazione, anche se su un piano completamente diverso, del lavoro che ha fatto Frick, insomma, della sua poetica. Quindi sì, no, ma poi ci sono altre, poi la gente non le conosce, non li sa andare a trovare. È un mercato troppo saturato? Sì, troppo saturato, troppo globalizzato, per cui non ci sono più le etichette che in qualche maniera avevano la funzione della scrematura, no? E che quindi portavano fuori quelli che poi bene o male, ma potevano essere bene o male, però avevano una struttura che permetteva degli artisti. Oggi che le etichette non ci sono più, che si pensa solo a internet, ottimo internet, ci mancherebbe, è stata una rivoluzione anche internet che ha permesso a tanti, però forse a troppi, non c'è più un senso critico, capito, si è perso, per cui tutti si sentono autorizzati a fare qualunque cosa e il livello si è abbassato. Però io penso che delle cose belle e interessanti in giro ci sono, bisogna andare a cercare, bisogna scovarle, bisogna mettersi lì con il lanternino e andare a brigare, però ci sono.